Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. In settimane sicuramente non allegre, perché è arrivata la notizia il 3 maggio che è venuto a mancare Luca Boschi. Luca Boschi è uno dei massimi esperti del fumetto mondiale, grande curatore, disegnatore e anche curatore di fumetti, in particolare della Walt Disney, ma non solo. Grande attivista del fumetto, presente ovunque, in tante scuole del fumetto, in tante manifestazioni, in tante fiere. Saggista importante, i suoi scritti sono tradotti in diversi paesi, tra cui Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Stati Uniti e anche la Svezia. Tutto il mondo del fumetto è in lutto, in modo concorde, e si domanda chi mai potrà sostituire questo personaggio, questa colonna. Da tempo era malato, ma certi protagonisti sembra che non debbano mai morire, poi invece. Luca Boschi era amico anche del CRAP e del Pioniere, avremmo dovuto averlo come ospite in un'iniziativa che doveva tenersi il 29 gennaio scorso, poi rimandata al 1 ottobre per noti motivi di Covid, e non avremmo mai più, peccato, questa possibilità di ascoltarlo, perché ascoltarlo era sempre un motivo di arricchimento nel fumetto, ma direi più in generale. E allora questa trasmissione è dedicata al ricordo di Luca Boschi. Allora, per ricordare la figura di Luca Boschi, la prima voce che abbiamo voluto ascoltare è quella di Paolo Gallinari di AMAFI, l'associazione Amici del Fumetto, un altro veterano che assieme e parallelamente a Luca Boschi ha percorso tante strade delle strips. A Paolo abbiamo fatto una domanda davvero difficile, cioè sintetizzare in pochi minuti la più che poliedrica attività di Luca Boschi. A Paolo Gallinari chiediamo una missione impossibile, ovvero sia riassumere in pochi minuti la più che poliedrica attività di Luca Boschi. E credo che sia un impegno veramente impossibile. Luca Boschi è stato, oltre che un grande amico mio personale, della nostra associazione, della ANAFI, uno dei personaggi competenti e poliedrici del mondo del fumetto italiano. Luca Boschi è stato disegnatore, sceneggiatore, critico, ricercatore, scrittore naturalmente, e si è dedicato a questa attività dei fumetti con una passione che sicuramente è una delle più elevate che si sia mai trovato, di tasso più elevato che si sia mai trovato in questo mondo dei fumetti. Il mondo dei fumetti, visto da Luca Boschi, era un caleidoscopio di immagini, di colori e di storie che lui ha sempre cercato di raccontare. Una delle caratteristiche di Luca Boschi, possiamo dire, nella panorama della critica e della saggistica del fumetto italiano, è stata proprio questa. Lui era un narratore di storie del fumetto. Lui era capace di, non so, raccogliere interviste, documentazione, testimonianze dirette da personaggi, attingere naturalmente alle proprie collezioni, e da queste raccogliere una serie di informazioni, nonché di aneddoti, che contribuivano a costruire una storia come su un altro mobile. Si cominciava a raccontare e da lì si dipanavano tutta una serie di informazioni straordinariamente curiose e complete, con infarcite naturalmente quelli che erano le sue opinioni in merito. E in particolare l'ultimo libro che ha scritto, che tra l'altro è stato edito da noi come ANAFI, che si chiama Italia ride, è un compendio, si può dire, del fumetto comico del dopoguerra. Allora, se diciamo così, che se il fumetto è sempre stato un'arte abbastanza negletta in Italia, o meglio, a volte a stento riconosciuta come, come espressione artistica, era la parte povera della parte povera, potremmo chiamarla così. Invece era, è stato sicuramente invece una fucina di grandi autori, di grandi idee e di grandi storie. Se pensiamo solamente a personaggi come Braccio di Ferro o il Diavolo Geppo o Beppe Cucciolo, che sono personaggi comunque nati moltissimi anni fa, stanno ancora nell'immaginario di tantissimi e tantissimi di noi. E Luca riusciva nel mettere assieme le informazioni sui disegnatori, gli autori, gli editori, tutti coloro che giravano attorno alla, alla formazione di una, la costruzione di un personaggio, di un fumetto, di una serie, di un volume, riusciva a raccontare tutte le storie innumerevoli che ci stavano intorno. Tra l'altro parliamo di un periodo in cui era molto facile che autori diversi lavorassero per diversi editori e quindi che ci fossero una serie di miscellane fra, diciamo, fra fra quello che veniva prodotto nello stesso periodo. Luca Boschi aveva la capacità di raccontare tutto questo come se fosse un documentario, come se fosse un film, come se fosse una storia, potremmo dire, inventata, perché anche riusciva col suo modo di scrivere a farne un tutt'uno. Ecco, questa morte di Luca Boschi potremmo prenderla in me anche come pretesto per simboleggiare un cambio di paradigma nel mondo del fumetto e dei suoi operatori, tra quelli dei vecchi giornalini, tu dicevi appunto il sottobosco del sottobosco, e quelli degli attuali graphic novel. Ecco, quali sono a tuo parere, nelle varie generazioni passate a confronto, le continuità e le discontinuità? Bella domanda, non so se ho qualche ora a disposizione, ma avendo immagino pochi minuti, diciamo che sicuramente è in atto un cambio più che di paradigma, un cambio di generazione. Oltre a Luca Boschi è venuto a mancare pochissimo tempo fa Luciano Tamagnini, nostro vicepresidente, nonché un altro dei importanti della critica e della saggistica del fumetto. Ancora poco prima, pochi giorni prima, Renato Pallavicini, che sull'Unità aveva la sua rubrica Il calzino di Bart, è stato uno dei primi a mettere su un quotidiano generalista una rubrica fissa che riguardava i fumetti d'animazione. Sono tutte persone comunque appartengono a una generazione piuttosto in là, diciamo così. Che cos'è che è accaduto probabilmente? Non c'è stato, da questo punto di vista, un ricambio generazionale nella categoria, diciamo così, della critica. Cosa c'entra questo con i graphic novel? Diciamo che la critica, rinnovandosi, avrebbe dovuto in qualche modo coniugare quello che è la storia del fumetto in maniera più tradizionalmente intesa con lo sviluppo successivo che c'è stato, tra cui quello che viene citato sempre più spesso dal punto di vista dell'evoluzione del fumetto e il graphic novel. Ora, in realtà il graphic novel non è che non sia una roba che viene inventata adesso. Il graphic novel storicamente viene attribuito come inizio alla narrazione di Will Eisner, quindi a Contratto con Dio, quindi stiamo parlando comunque degli anni 50, quindi non stiamo parlando di una cosa che nasce oggi, stiamo parlando però di una forma espressiva legata al fumetto che viene riconosciuta differente da quella che in Italia eravamo abituati a trattarci. Per noi il fumetto sostanzialmente era il fumetto popolare che usciva in strisce o in serie, Tex per dirne una, e che aveva determinate caratteristiche, ovvero una serie che indicativamente poteva anche non finire mai. Soprattutto le storie western hanno questa grande caratteristica, no? Partono da un punto e potenzialmente non finiscono mai, e mentre invece il graphic novel ha questa caratteristica della compiutezza della narrazione, cioè si prende un argomento, un personaggio, una storia e queste vengono trattate come se fossero un romanzo, da qui la definizione novel che in inglese vuol dire in realtà romanzo, non vuol dire novella, da qui anche a volte o racconto, da qui anche a volte l'equivoco sul fatto che sia maschile o femminile, ma non mi addentro in questo. Sicuramente il graphic novel è un'evoluzione importante perché rende soprattutto il fumetto momento un mezzo di comunicazione che è in grado di darci anche rassicurazioni realistiche che riguardano per esempio l'attualità, che riguardano l'informazione, che riguardano la politica, che riguardano la biografia, che riguardano, diciamo, potremmo chiamarla la parte realistica che riguarda i fumetti, cioè i fumetti non solo come mezzo di evasione, non solo e non tanto come mezzo di evasione, ma come modo di raccontare che può travalicare tutta una serie di barriere, fra cui quelle linguistiche, per esempio. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un'evoluzione importante. Io credo che però ci sia una linea di continuità fra quelle e questo, cioè fra il fumetto tradizionalmente inteso e la potenza comunicativa del fumetto per i graphic novel, passando attraverso, per esempio, l'utilizzo del fumetto come mezzo per la pubblicità, per i manifesti, come mezzo per pubblicizzare prodotti o film, e lo vediamo anche nella nostra esperienza quotidiana quando guardiamo la televisione, tantissime cose passano attraverso forme fumettistiche o a cartoni animati, o guardiamo anche cartellonistica. Vediamo che questo modo di raccontare è diventato un modo di raccontare ormai comunemente accettato, anche se a volte passa attraverso mezzi che magari non ce lo rivelano in maniera così diretta. Ecco, scartabellando nella rete ho visto nel lutto unanime concorde del mondo del fumetto la domanda: ci lascio un vuoto, Luca, che è difficile riempire. Tu vedi un Boschi all'orizzonte? No, non saprei dirlo. Io credo che lui avesse una sua caratteristica, quella che cercavo di spiegare prima, che era quella di sapere, raccontare in forma narrativa anche le parti storiche più evidentemente informative. Cioè lui era in grado di prendere la storia di un editore, mentre la raccontava le pubblicazioni, raccontava gli autori in una specie di continuum che a volte lasciava anche un po' storditi. Ma come fa a sapere tutte queste cose, Luca Boschi? Cos'era lì nel momento in cui succedevano? E la sua capacità, diciamo così, di essere così dotato dal punto di vista della scrittura, la si vede anche dal fatto che poi Luca Boschi, fra le tante sue attività, era anche un apprezzatissimo e ricercatissimo curatore di serie. Voi conosciamo tutti, no, il fatto che con ormai da diverso tempo, si può dire da almeno un ventennio, escono con i quotidiani ripubblicazioni, ristampe, serie di fumetti. Prima citavo Braccio di Ferro, per esempio, ma potrebbe essere Iacovitti, potrebbe essere, ci sono tante serie che sono state seguite e curate da Luca Boschi. Cosa vuol dire curare una serie che esce su per esempio sul Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, mettiamo, o Repubblica, esce su, cioè assieme al quotidiano? Vuol dire che, cioè, non è che uno prende un volume, un giornalino, lo scannerizza e poi via, andiamo a stampare. Vuol dire cercare, per esempio, di seguire una narrazione dal punto di vista cronologico, cosa che non sempre è facilissima nel cercare su vecchie serie. Vuol dire inquadrare poi queste serie dal punto di vista storico e dal punto di vista del periodo in cui sono uscite. Vuol dire ridare il sapore di un'epoca, perché parliamo quasi sempre di pubblicazioni naturalmente d'antan, e quindi che da questo punto di vista diventano, difficilmente inquadrabili se non c'è qualcuno che sia in grado di farlo. Ora, le capacità di Luca Boschi, molteplici capacità di Luca Boschi, da questo punto di vista sono difficilmente riassumibili o confrontabili a quelle di altri che fanno più o meno il suo stesso tipo di lavoro. Ci sono altri naturalmente capacissimi da questo punto di vista, ma che appartengono sempre a una generazione, più o meno alla generazione di Boschi. In futuro non so chi sia in grado di lavorare e produrre a pari di come produceva Luca Boschi, lo dico dal punto di vista qualitativo e anche quantitativo, perché si occupava di una quantità di serie, di cose veramente incredibili. A questo, se posso aggiungere, una modestia, una disponibilità che era una persona occupata come era lui in tantissime imprese, era lodata da tutti, perché lui non diceva mai di no a nessuno. Qualcuno chiedeva un articolo suo, oppure gli chiedeva ma quando è uscita questa cosa, lui in qualche modo a un certo punto riusciva a dare una risposta. La sua gentilezza, la sua abilità, la sua disponibilità sono sicuramente un marchio di fabbrica difficilmente replicabile. Remember me, though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember. E questa è la colonna sonora del film Coco, un film d'animazione che ci parla delle anime allegre dei trapassati messicani. Color is the sky, ay mi amor, you tell me that it's red, ay mi amor, where should I put my shoes, ay mi amor, you say put them on your head, ay mi amor, you make me un poco loco, un poquitito loco, the way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing, now count it as a blessing, that I'm only un poco loco. It is just un poco crazy, the sense that you're not making. The liberties you're taking leaves my conscience shaking. You are just un poco loco. Il secondo ricordo per Luca Boschi arriva dal blog di Fisbio, nel suo Fisbio Show, un blog particolarmente dedicato alla produzione Walt Disney, in cui Boschi si cimentò con grande capacità e produttività. È davvero un ringraziamento questo ricordo per una persona che ha visto in Luca Boschi proprio un maestro nelle variopinte vie del fumetto. Luca Boschi, il più grande esperto di fumetto italiano e non solo. Luca, per chi non lo sapesse, era malato da diverso tempo, difatti anche sull'ultimo numero dei grandi classici Disney non aveva firmato lui l'articolo delle storie superstar, che era stato poi dirottato nelle mani di Gerbaldone, Francesco Gerbaldo. Sembrerà proprio uno scherzo del destino che ha visto entrambi negli ultimi due mesi lasciarci. E per me è difficile comunque commentare questa notizia, perché ci sono rimasto molto molto male. La cosa veramente mi ha provato in modo particolare, che i fumetti erano la sua vita, la sua passione. Dedicava tutte le ore della giornata, della notte, stando dietro a tutti i suoi lavori, le sue creature, i suoi figli, e ci ha insegnato tantissimo. Tanti di noi sono cresciuti leggendo i suoi articoli di approfondimento su varie testate del passato come Zio Paperone o i Maestri Disney. Cito queste due perché sono le più famose, quelle in cui ha dedicato più tempo e ha creato la maggior parte dei contributi scritti. Ma Luca era anche una persona buonissima, sempre con il sorriso stampato in faccia. Lo si incontrava a tutte le edizioni della Fiera di Reggio Emilia,